Beh, buonasera a tutti e a tutti, grazie di essere venuti. E siccome siamo anche a Libreria Carusca, mi pare un dovere di dire che questo film Ciompi è tratto dal mio libro La rivolta di Ciompi, pubblicato nel 1993 in Francia dalle edizioni del Code Autre Retournance Sociale, ed era la mia tesi. Io ringrazio Agnès Perret, la realizzatrice di questo film, che mi ha contattato qualche anno fa dopo aver letto il mio libro e ha voluto farne un film. E ha fatto un film, lo vedrete, parla dei Ciompi di ieri del 300 fiorentino e dei Ciompi di oggi, e fa una mescolanza che vedrete, per me è riuscita. E dunque, giusto una parola, poi faremo un dibattito dopo il film, giusto una parola per dire i Ciompi erano chiamati così dai borghesi fiorentini, è una cosa proprio fiorentina, nessun altro regione d'Italia è stato utilizzato questo termine. E Ciompi era entrato nel Fiorentino nel 300, nella prima metà del 300, portato dai soldati francesi, mercenari, che hanno loro chiamato il popolo minuto, i lavoratori tessili della lana a Firenze del 300, li hanno chiamati Ciompi, che è stata una derivazione da Ciampi, Ciampis, del francese, che vuol dire figli dei campi, cioè figli di puttana praticamente, cioè l'insulto massimo in tutto il mondo da quando esiste l'insulto. E contro questo disprezzo per la loro dignità, i Ciompi si sono ribellati, e i Ciompi di oggi, anche in Francia oggi, si ribellano. Il 31 di agosto il controgoverno di Ciompi è dichiarato illegale. L'indomani, 1 settembre 1378, il governo convoca il Parlamento del Popolo sulla piazza della Signoria e propone l'abolizione immediata di tutte le conquiste di Ciompi. Dalla piazza si leva un coro di sì, sì, sì. il Parlamento ha votato. L'arte di Ciompi è abolita. I leader rivoluzionari sono condannati a morte. Domenico Lituccio di Totambo e Matteo di Sesto Albigai sono decapitati sulla piazza della Signoria. In presenza di una folla enorme, i due santi e il popolo di Dio non manifestano alcun pentimento. Prima di essere messo con la testa sul ceppo, Domenico Lituccio pronuncia le parole seguenti. Questo sappi Dio, che noi muoiamo a grandissimo torto, e se per noi si deve racconciare la terra, moriamo contenti. Il 24 giugno del 1378 la festa di San Giovanni non fu celebrata. Non erano i fuochi della festa che si innalzavano sopra i tetti di Firenze, ma quelli delle case incendiate dei capi del partito dei Guelfi. Non si avevano passare a processioni ben regolate, ma ondate umane incontrollate che correvano da tutte le parti, sotto lo sguardo attonito dei benpensanti che si affrettavano a barricarsi in casa. Gli straccioni occupavano le strade cittadine. Ouvriers, banlieusards, ils louent leurs bras à la journée. Ils vivent dans les périphéries de la ville, dans des petites maisons, des baraques. Les femmes travaillent à domicile avec les enfants. Près des portes, les hommes lavent les balles de laine dans les eaux froides de l'Arnaud. Ils apportent ensuite la laine jusqu'aux ateliers. Cardeurs et peigneurs la démêlent et la préparent au filage. Salle de graisse et des couleurs des teintures. Ciompi, on les appelait. Pouilleux, crasseux. Tutto era cominciato qualche giorno prima, nel palazzo della signoria. Le tensioni che opponevano tra loro i fiorentini potenti erano giunte ad un punto di rottura. Sabato 19 giugno le botteghe e le officine smisero di lavorare. La domenica ogni corporazione fece un'assemblea nella loro sede e incominciò ad armarsi. Poi, il martedì mattina, tutte le corporazioni si presentarono in massa sulla piazza della Signoria. Se mêlant à la foule, d'autres groupes non conviés prennent part à l'agitation. Les travailleurs non qualifiés des manufactures textiles. Ceux qui étaient exclus des corporations. Et parmi eux, les Tchompi. Il popolo minuto si era sollevato e per prima cosa diede l'assalto all'imponente fortezza delle Stinche, le carceri comunali, librandone tutti i prigionieri reclusi. Je suis arrivé en France en 82, après avoir passé un an au Mexique. Puisque je m'étais barré d'Italie fin janvier 81. Et après deux ans de cavale en Italie, j'avais un mandat d'arrêt. Et j'en pouvais plus. Je suis parti d'Italie pour fuir la galère, la prison, et pour éviter la mort, parce que à ce moment-là, c'était ça les perspectives, qui étaient réservées à ceux qui continuaient la lutte armée en Italie. Une lutte armée dans laquelle moi, comme des milliers d'autres Italien de ma génération s'était lancé. Et dans les années 70, après tout un parcours de lutte sociale, lutte ouvrière, lutte étudiante. Et c'était la fin. La perspective, quand tu arrives en France, c'était plus de continuer le même mode de lutte, quoi, de relancer quelque chose. T'étais aussi un peu plombé par ce qui s'était absolument, passé. Absolument. Et puis j'avais été plombé aussi par la mort des quatre copains, camarades. En avril 1979, trois qui étaient morts dans l'explosion d'une bombe qu'ils étaient en train de préparer, et un autre qui s'est suicidé en prison deux mois après. Et c'est qui m'avait quand même beaucoup touché. Puisque c'était des camarades, mais c'était aussi ou surtout des copains avec qui j'ai partagé la vie, et pas seulement la militance politique, mais plein d'autres moments agréables dans la vie, des sociabilisations, des collectivisations, de tout. Et t'étais seul quand t'as... Enfin, en France, du coup, il y avait d'autres camarades comme... Oui, bien sûr. Comme il y avait d'autres camarades déjà au Mexique, quand je suis arrivé, il y avait déjà des camarades italiens qui étaient installés à Paris, pas beaucoup, une vingtaine. En tout cas, c'est qui et c'était quoi. Ils vivaient cachés. Et moi, je suis arrivé en France suite au fait que Mitterrand avait déclaré que pour... limiter les dégâts en Italie, il était disposé à accueillir en France des militants des groupes armés qui, évidemment, abandonnaient les armes et qui se tenaient tranquilles en France. Bon. Et c'est que moi et un millier d'autres ont fait entre 82 et 83. Au nord de l'Europe, à Ypres, Bruges, Gand, les tisserands se sont soulevés. Les révoltes parcourent les Flandres. Des ouvriers exilés ont trouvé à s'embaucher dans les ateliers florentins. Les langues se croisent, les nouvelles circulent. Alle 9 di mattina del martedì 20 luglio, le campane della chiesa del Carmine danno il segnale. Centinaia e centinaia di insorti si raggruppano a Santo Spirito, Santo Stefano a Ponte, San Piero Maggiore e San Lorenzo. Malgrado il divieto assoluto di fare riunioni del popolo minuto, rischiando l'arresto, la tortura o la morte, quelli che erano chiamati sottoposti si erano organizzati clandestinamente. I ciompi d'Oltrarno ne avevano preso l'iniziativa. Hanno sancito la riunione con un bacio e formato un comitato di 12 rappresentanti, incaricati delle relazioni con i minuti degli altri quartieri. Da questi punti strategici della città, gli insorti formano quattro grossi cortei che convergono correndo e gridando verso la piazza della Signoria. Cardeurs, peigneurs, teinturiers, fileuses, tisserands, porteurs, manœuvres, brodeuses, tailleurs, fabricante de canettes. Il file par les rues. Quando i priori vengono a sapere del piano insurrezionale, convocano immediatamente tutte le milizie di gonfaloni di quartiere. Ma l'antica solidarietà territoriale si è spezzata. Le divisioni interne hanno finito per paralizzare il loro funzionamento. La maggior parte di esse non risponde agli ordini ricevuti. I minuti si dirigono verso i palazzi di alcuni padroni delle manifatture della lana che saccheggiano e incendiano. Poi puntano ancora più in alto e danno l'assalto al palazzo dell'arte della lana. Una folla di scardassieri, pettinatori, lavoranti fanno irruzione nel palazzo, gli appiccano il fuoco e scacciano l'odiato giudice della corporazione, ritenuto responsabile di tante angherie subite. Io mi ricordo quando 10-20 anni fa si facevano le manifestazioni e si parlava delle multinazionali, delle aziende che sfruttavano i lavoratori in Cina, in Bangladesh, in Pakistan per fare i vestiti. E noi facevamo queste manifestazioni e non ci eravamo accorti che questa schiavitù, questo sfruttamento non era solo in Bangladesh o in Cina, era al Macrolotto a Prato, a 14 chilometri da dove fanno le mostre di alta moda a Firenze, era a 2 chilometri da dove siamo ora. E ora in queste settimane, in questi mesi, si parla tanto di salvare il distretto tessile pratese. Noi non vogliamo salvare questo distretto, noi non vogliamo salvare un distretto che si regge sullo sfruttamento delle persone, noi non vogliamo salvare un distretto dove gli scarti tessili finiscono in mezzo alle terre e inquinano la città, inquinano l'acqua che ci beviamo. Noi questo distretto non lo vogliamo salvare. Cosa vuol dire questo? Perché sapete che tanti politici dicono questo, che se si chiedono i diritti si perdono i posti di lavoro, e in questi 20 anni, a furia di ragionare così, non c'è più un posto di lavoro. Ci sono i posti di schiavitù a Prato, non ci sono i posti di lavoro. Durante tutto il pomeriggio, altre case di proprietà di grandi e ricche famiglie fiorentine sono attaccate e incendiate. Poi, all'ora del vespro, i minuti decidono di farsi beffi dei potenti e organizzano una cerimonia di investitura di 60 cavalieri del popolo minuto. A cominciare da Silvestro dei Medici e gli otto della guerra, 60 membri del partizzato fiorentino sono condotti sulla piazza della Signoria. Alla porta del palazzo, 3 antichi cavalieri procedono alla vestizione e li fanno giurare di servire il popolo minuto, sotto gli sguardi, le risate e le grida dei presenti. La giornata finisce con un atto di giustizia popolare. Sernuto, la città del Castello, capo della milizia, conosciuto da molto tempo per il suo zelo repressivo, viene catturato, ucciso, appeso per i piedi sulla piazza della Signoria e il suo corpo smembrato. Tenne dans une région en Provence, plutôt la province de Vicenza, qui était la capitale du textile en Italie. Et donc je suis né, j'ai baigné dans dans la révolte ouvrière des ouvriers du textile. Et donc, les Ciompi étaient des ouvriers du textile du XIVe siècle. C'est pour ça que ça m'intéressait. Mais comment tu avais connu cette histoire? Je l'avais connu, mais très superficiellement, parce que. Elle était déjà connue comme une des premières révoltes ouvrières en Europe au XIVe siècle. Et donc, j'ai voulu aller voir précisément qu'est-ce qui s'est passé, qui c'était les gens, pourquoi ils se sont révoltés, quelles étaient les raisons. Et c'était comme un transfert, ou plutôt un va-et-vient entre mon histoire personnelle, mon vécu, et. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire des semblables, des proches, des contemporains dans l'idée. Al calare della notte, gli insorti lasciano la piazza della Signoria e si ritirano nei loro quartieri per passare la notte. Mentre i priori si preparano all'assedio all'interno del palazzo, facendo scorta di pane, vino, aceto, carne salata, formaggio e sale, gli insorti moltiplicano le discussioni. Les Ciompi sont montés vers les toits. Ils s'emparent des clochers. Ils sonnent le tocsin au Carmine et à San Frediano. La rive droite de l'Arno leur répond. Erano 6 o 7 mila ad accamparsi a Belletri quella sera. Quando ripartono da lì l'indomani mattina, dopo una pioggia torrenziale, sono più di 10.000. Il corteo, deciso e minaccioso, si dirige immediatamente verso il palazzo del Podestà. La folla di insorti penetra loro nel palazzo, libera i prigionieri, saccheggia e brucia quanto può e appende i vessilli delle arti sulla torre del palazzo. Alcuni delegati presentano ai priori le petizioni preparate nel corso della notte ed esigono le dimissioni dei priori in carica. Questi dapprima si rifiutano, poi tergiversano, ma sotto la minaccia di vedere bruciate le loro case finiscono per accettare le rivendicazioni. Da parte del popolo minuto della città di Firenze, si richiede a voi, fiori delle arti, gonfaloniere di giustizia del popolo e del comune di Firenze, nella misura in cui vi piaccia e vogliate provvedere e deliberare per il benessere e la tranquillità del popolo e del comune di Firenze e fare che siano solennemente riformate tutte le singole cose descritte di seguito, vale a dire. Anzitutto si chiede che ufficiale Florence dell'arte della lana da ora sia rimosso in privato del suo incarico e che nessuno possa essere eletto a tale incarico, qualsiasi sia fatta in contrario, sia nulla e non valida. Inoltre si richiede che l'ordinamento emesso nell'anno del Signore 1356 da ora sia revocato e annullato e non meriti di essere applicato. Tra le altre cose, che chiunque sia condannato in futuro a pene pecuniarie non soddisfi da sé la condanna emessa in denaro contante al camerlengo della Camera del Comune di Firenze. Gli sia tagliata la mano destra e, in caso fosse mancante, quella sinistra, in modo da essere completamente separata dal corpo. Inoltre si chiede che nessun capo o funzionario della comunità di Firenze o qualsiasi altra persona possa procedere, indagare o punire qualsiasi crimine, trasgressione o reato, fatti o anche parole, a partire dal passato giorno 18 del mese di giugno fino al giorno in cui il presente provvedimento venga firmato nel Consiglio del Podestà e del Comune di Firenze, e che chiunque per i detti e dai detti crimini, trasgressioni e reati sia assolto e liberato e sia riguardato come se tali crimini, reati o trasgressioni non fossero mai stati commessi. Inoltre si chiede che tutti e i singoli sottoscritti, i cui nomi si trascrivono sotto, cioè Buono Lorini del popolo di San Nicola, Tommaso Bartoli del popolo di Santa Maria di Verzaia, Filippo Simoni del popolo di San Pietro in Gattolino, Giovanni Giovanni, chiamato Guidone, del popolo di San Simone, Silvestro Tegne, del popolo di Sant'Ambrogio, Frosino Benini, del popolo di San Simone, Silvestro Giovanni, tintore, Spinello di Simone Borsi, Mezza di Giacomo Mezza, Baldo Lapi, del popolo di Sant'Ambrogio, Stefano Franceschi, del popolo di Sant'Ambrogio, Simone Franceschi, del popolo di Santa Lucia di Tutti i Santi, Bartolomeo Bianchi Bonsi, del popolo di San Lorenzo, Michele Lando, del popolo di San Piero Maggiore. Signor Guido Silvestri, del detto popolo, Ciardo Berti, del popolo di San Lorenzo, Ser Andrea di Ser Guido Corsini, Giusto Neri, chiamato Citerna, Baldo Niccolai Fei, Bonacorso Giovanni, Domenico Sinibaldi, Leoncino Francini, Michele di Serparente, Miniato Nucci, Cambio Bartoli, chiamato Colosso, del popolo di San Lorenzo, Pierozzo Bartolommei, Simone Franceschi, Rigattiere. Cambio Bartoli, chiamato Colosseo, del popolo di San Lorenzo, Pierozzo Bartolommei, Simone Franceschi, Rigattiere, Lorenzo Riccomanni, Stagio Dini, Nardo Fei, Marco Fei, Simone Sandri, siano considerati essere e siano sindaci del popolo minuto della città di Firenze. Padrone delle strade il giorno prima, il movimento insurrezionale è oggi padrone dell'intera città. I minuti prendono i soldati del comune le chiavi delle porte della città, le chiudono fortificandole e montano la guardia. E mentre alcuni giovani fanno suonare a distesa la rossa campana, annunciando la vittoria, Michele Di Lando, un pettinatore di lana, vestito semplicemente con una camicia e delle scappette, è eletto per acclamazione gonfaloniere di giustizia, capo del governo cittadino. Le système politique florentin était soi-disant démocratique. Florence, ça s'appelait la République florentine. Et donc les Florentins tissaient des éloges sur la République. Et effectivement, il y avait une forme démocratique de gestion du pouvoir. Et puisque les gouvernements florentins appelaient les prières ou la seigneurie, c'était élu par tirage au sort tous les deux mois, et ça changeait tous les deux mois. Les gouvernants changeaient tous les deux mois. Mais ils changeaient entre eux. C'est-à-dire que dans les sacs où on faisait le tirage au sort, il y avait quelques centaines de personnes sur 50, 70 000 Florentins. Vous voyez ? Et donc c'était une république, une démocratie qui concernait une petite minorité, disons 10% de la population à tout casser. Et c'était les élites économiques qui dirigeaient. Et les Tchombes se sont révoltés contre cette escroquerie, ce faux semblant de démocratie de la République. Et puisque la masse de la population, et surtout les plus pauvres, étaient exclus des corporations, exclus de toute la présence politique. Et donc c'est un des facteurs à la base de la révolte. Et l'historiographie a ensuite voulu voir jusqu'à moi, en fait, voir quelqu'un derrière qui manœuvrait pour des factions de la bourgeoisie ou de l'aristocratie qui voulaient prendre le pouvoir contre les autres. Et parce que ça, c'est la mentalité aussi des historiens qui sont pour la plupart issus des classes aisées aussi, pour dire ce qui est, et qui donc ils ne peuvent pas concevoir que des gens, des prolétaires, des ouvriers puissent raisonner avec leur tête. Et donc les historiens, ils ont épousé ce que disaient les contemporains bourgeois florentins, qui disaient c'était une masse qui bougeait, qui était métière, qui sans tête. Sans tête, il n'y avait pas de tête. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tête pensante derrière, et donc ils ont cherché à voir qu'il y avait un tel ou tel autre, Silvestre de Médici ou quelqu'un d'autre, un grand bourgeois, un aristocrate, qui manœuvrait le peuple, les masses. Comme si les masses bougeaient parce qu'il y a quelqu'un qui disait bouger. Quelqu'un qui manœuvre les marionnettes. C'est une idée complètement. C'est un parti pris, en fait, des bourgeois qui dénient une intelligence aux prolétaires, une intelligence collective. Alors que c'est évident que la votre élection, c'est une intelligence collective. Des épisodes qu'on évoquait avant, l'utilisation des cloches, l'utilisation des étendards, des bannières, etc. Les renversements des rôles dans la société, etc., les chevaliers du peuple muni, etc., et ben, ça démontre qu'il y avait une intelligence collective des Tchompi. Et qui s'organisait. Et qui s'auto-organisait, parce que les Tchompi, à partir du mois de juin, s'auto-organisent par des comités de quartier. Les comités de quartier. Et c'est dans les quartiers prolétaires qu'ils s'auto-organisent et qu'on élit en nombre des représentants qui ne sont pas représentants. Représentants du pouvoir. Ce sont juste des représentants du mouvement des quartiers qui vont se mettre en lien avec les autres comités des autres quartiers. Hein? Donc c'est un refus de la représentation politique où il y a une hiérarchie de chefs, de représentants élus par qui. Et donc il y a déjà un esprit d'auto-organisation, d'autogestion, d'autonomie, on dirait aujourd'hui, des prolétaires qui sont contre le pouvoir et veulent détruire le pouvoir. Et tous ceux qui ont fait les Tchompi, les pétitions des Tchompi, disent ça, ils veulent détruire ces systèmes qui étaient une vaste escroquerie. Я не верю, Io chiamo ora, ora, io chiamo. Abdu. Più! Inoltre, che gli altri del resto del popolo minuto e gli artefici delle arti minori della città di Firenze debbano essere accolti all'incarico e nell'incarico del gonfalonierato di giustizia, come a loro spetta in proporzione, e come hanno e sono accolti gli altri cittadini fiorentini. E siano detti per questo incarico del popolo minuto, e siano considerati artefici, idonei e abili a tutti gli effetti. Hello. السلام علیکم، میرا نام فرحان ہے، میں اس فیکٹری میں 3 سال سے کام کر رہا ہوں اور 12 گھنٹے 7 دن کام کر رہا ہوں، اور اب ہم نہیں کر سکتے اس سے زیادہ کام، وہ مالک بولتا ہے کہ 7 دن اور 12 گھنٹے اٹالین قانون میں ہے، لیکن اٹالین قانون میں 8 گھنٹے اور 5 دن ہے قانون کے مطابق کام ہے، لیکن وہ ابھی تک مان رہا، 4 منتھ ہو گئے ادھر شاپرو کیے ہوئے، ہڑتال کیے ہوئے اب، لیکن وہ نہیں ابھی تک مان رہا، اور ہمارا مطالبہ اس سے یہی ہے کہ وہ کنٹرات تو ریگولر کرے انٹرمنٹ تو. Sono un operaio di Texprint qui in sciopero, ho passato 3 mesi e stiamo chiedendo per lavorare 8 ore e 5 giorni e l'azienda non vuole accettare questo e noi chiediamo un contratto regolare. Abbiamo lavorato 12 ore sul 7 giorni e non vogliamo lavorare più 12 ore e 7 giorni e chiediamo per lavorare 8 ore e 5 giorni. Un mese dopo la presa del palazzo, i ciompi cominciano a pensare che i conti non tornano. Certo, adesso hanno una propria corporazione, una propria milizia di balestrieri, di rappresentanti negli organi di governo. Mini boicottaggio istituzionale orchestrato dai ceti dirigenti e il boicottaggio economico messo in atto dai padroni delle manifatture laniere impediscono al governo uscito dalle giornate insurrezionali di applicare le riforme. I decreti restano lettera morta, le armi non sono abbassate, le botteghe e le fabbriche restano chiuse. I ciompi decidono allora di condurre la rivolta fino in fondo, per conto loro, senza più compromessi con i membri delle arti maggiori e minori. A fine agosto, Piero Alciri, Luca Del Melana, Meo Del Grasso, Bartolo, Zanobi, Agnolo Di Cenni e 200 altri scardassieri e pettinatori d'Oltrarno si riuniscono in un campo dietro il monastero delle Convertite a Camaldoli. Decidono che da loro in poi i ciompi agiranno fuori e contro le istituzioni comunali di Firenze. 200 persone riunite in un campo del loro quartiere di periferia teorizzano il contropotere. Ceux qui n'ont pas de nom de famille, qui portent le nom de leur quartier, le prénom de leur père, un surnom. Giusto la barrique, Guido le drapeau, Cambio le colosse. Ceux qui n'ont que leur outil dans la poche. Et puis les femmes, dont on ne connaît pas les noms, parce qu'on ne les trouve même pas dans les archives. Hanno fatto contratto a Prandista che falsi. Abbiamo chiesto per i nostri diritti 8x5, 8 ore, 5 giorni vuol dire conoscere l'Italia, tempo per studiare, tempo per conoscere Prato. Non più questo sfruttamento, nostra lotta sempre continuava fino alla vittoria. Sciopero, sciopero! Sciopero, sciopero! Sciopero, sciopero! Sciopero, sciopero! Tutti quanti arrivano a noi più di 10.000 euro. Non frega a noi, noi non andare via. Prima noi andare al lavoro notte, 12 ore, 7 giorni. Nessuno non controllare, nessuno non fa denuncia. Ora noi mandiamo richiesta per i nostri diritti, tutti mandano denunce. Perché? Noi richiesta perché loro mandano denunce. Noi vogliamo i nostri diritti. Noi siamo fino a vittoria, non andare a casa. Sciopero, sciopero. Mafia, mafia. Io lavoro da Sprint anche 3 anni. anche durante il lavoro un amico ha rotto mano. Ora un mio ha tagliato dito, non è arrivato ambulanza, non ho chiamato ambulanza. Io sono un operaio di TechSprint, ho lavorato a TechSprint 6 mesi senza contratto. Questi negli ultimi anni, prato diventato per lavorare 12 ore su 7 giorni è una cosa normale. Questa cosa non va più. Qui prato padroni, abbiamo scioperato TechSprint passato 3 mesi. Padroni hanno messo un accordo che vogliono fermare questo picchetto, vogliono fermare nostra lotta. Però erano sbagliato, noi non ci fermiamo così. Ora è passato 3 mesi e niente, pochissimo. Noi siamo pronti per prossimi giorni, prossimi mesi, neanche prossimi anni. Noi siamo pronti per stare lì e per bloccare questo pacchetto. Un mese fa è venuto polizia per sgombare i lavoratori. Hanno messo 6 ore, hanno messo 6 ore per uscire 2 camion di merda. Padrone di TechSprint è restato 6 mesi sull'andrangheta. Sì, lo sanno tutti, lo sa Questura, lo sa Prefettura. E ancora stanno aiutando loro, perché non si fanno vedere questa forza a fabbrica? Dite a voi, per lavorare 8 ore e 5 giorni, cosa stiamo chiedendo? Stiamo chiedendo che dice legge italiani. E Questura dice, noi mandiamo via a vostri paesi se voi fate questo sciopero. Noi ci togliamo i vostri permessi di soggiorno. Legge italiana dice, se uno fa denuncia sul sfruttamento, Questura deve dare permesso di soggiorno, non deve togliere permesso di soggiorno. Sciopero! Sciopero! Noi andiamo avanti fino alla vittoria perché siamo ragione. Non ce l'abbiamo paura perché siamo ragione. Chi c'è ragione non si può fermare nessuno a lui. I padroni alla TechSprint in questo momento stanno tirando dell'acido sui lavoratori che sono in picchetto mentre noi siamo qui a fare questo presidio. Per cui chiedo a tutti di rimanere, ci sposteremo davanti alla TechSprint per fare capire che non si possono approfittare mentre noi siamo qui a parlare. Andremo davanti a quei cancelli. Buonasera a tutti. La sera i zompi si ritirano dalla piazza e si installano alla chiesa di Santa Maria Novella. In assemblea eleggono 8 rappresentanti a cui danno il nome di 8 santi del popolo di Dio, allusione agli 8 della guerra della Signoria di Firenze. Vi affiancano 16 consiglieri, più 4 notai per redigere le loro volontà. E si danno come emblema l'insegna dell'angelo, di San Michele, l'angelo della giustizia. quel punto si ingaggia un braccio di ferro fra il governo legale e il controgoverno dei ciombi, fra il palazzo della Signoria e la chiesa di Santa Maria Novella. Depuis le palais, un seigneur écrit. Ô mon Dieu, quels gens eurent à réformer une si noble ville et son gouvernement. C'étaient des maquereaux, des filous, des voleurs, des batteurs de laine, des semeurs de mal, et gens dissolus et de toutes sortes de méchantes conditions. Et très peu de bons citoyens, et presque pas d'artisans connus. Il n'y avait là que des déracinés ne sachant pas eux-mêmes d'où ils venaient, ni de quelle contrée. Seulement des gens vils et inutiles. Ils ne voulaient entendre aucun honnête homme, et encore moins voir au palais aucun citoyen honorable, vêtu de bons habits, mais seulement des gens comme eux. Ma all'interno del palazzo del potere, il governo di Michele di Lando prende tempo per preparare la risposta. Fu discusso e concordato fra tutte le arti e tutti i cittadini del popolo grasso di disfarsi e privare dell'onore dello statuto conquistato il popolo minuto, cioè quell'arte detta dei ciompi. Così scrive un memorialista fiorentino che doveva trovarsi nel palazzo. Contro i ciompi si forma allora un blocco sociale che raggruppa i membri del patriziato, delle arti medie e minori, fino agli artigiani qualificati della lana, i penultimi, prima dei ciompi, ad aver ottenuto i diritti corporativi. Così il fronte insurrezionale di luglio si è diviso e i minori si schierano adesso contro i minuti. Thank you. سید مبشر علی شاہ، یاسر عباس، سید ذیشان علی شاہ، خالد پرویز، مدثر حسین، محمد ضیاء، سفیان علی، فرحان گوندل، احمد علی، نصیر الدین، عبدو، سریاب الدین، فیصل عمران، طاہر اقبال، بلال امجد، نزاکت علی، قاسم علی، شباز احمد. Il 31 di agosto era la resa dei conti. Domenico Rituzzo, detto Tambo, e Matteo di Sassalvigai, due degli otto santi che si recano al Palazzo della Signoria per far giurare i priori di mettere in applicazione le decisioni di Ciompi, vengono feriti e imprigionati da Michele Di Lando e gli sbirri del comune. La risposta di Ciompi è immediata. Le campane della chiesetta di San Paolo, alle quali fanno eco quelle di San Frediano e San Giorgio, chiamano i Ciompi all'azione. All'opposto, la grossa campana del palazzo chiama raccolti i membri delle corporazioni e delle milizie dei gonfaloni territoriali. Sotto un sole cocente, durante tutto il pomeriggio i due gruppi si scontrano. Gli insulti e le grida lasciano rapidamente il posto allo scontro fisico. Gli artigiani della lana, i macellai, i tavernai si gettano per primi contro i Ciompi, mentre dal lato del palazzo i soldati scagliano frecce, lance e pietre. Alla fine del combattimento, i Ciompi sono obbligati ad abbandonare la piazza, lasciando sul terreno una ventina di morti. La nuit est tombée. La ville pleine de soldats devient un tombeau. Les hommes des corporations consomment leur vendetta. Ils entrent dans les maisons des Tchompi, à Belletri, à Kamal Doli, et violent leurs femmes. Plusieurs Tchompi parviennent à quitter la ville, s'enfuient alentour, dans les campagnes, dans les villes voisines. Tous les écrits sont expriment de l'imaginaire. Il n'y a rien d'objectif, de vrai. Un acte notarié qui paraît la chose la plus objective de l'écrit historique et quelque chose de vrai, un acte notarié est un faux en soi. Le premier acte notarié que nous avons du Moyen Âge, c'est quoi? C'est des actes qui disent que tel monastère ou tel prince, ou tel seigneur est propriétaire de tel domaine, etc. Mais ça, c'était des confiscations, en fait. Avec l'écriture, on sanctuarise quelque chose qui était une rapine, un vol, une confiscation, un abus. Donc tout ça, c'est des inventions. Les premiers écrits, notamment à Florence, écrits par des gens qui n'étaient pas professionnels de l'écriture, mais qui avaient appris à lire et à écrire, c'était des mémoires des familles. Mais dans les mémoires des familles, même au 14e et 15e siècle, mais on s'inventait de l'origine familiale des Noé, en passant par le roi de Rome. Donc, parce qu'on se construit, on enjolive, on se fait une belle légende, en fait, on dirait aujourd'hui. Toute écriture est une construction. La mienne aussi, d'ailleurs, hein, je ne les nie pas. J'ai pris les événements comme de l'écriture des Tchompi de leur histoire. Les événements, les actions des Tchompi parlent pour eux. Évidemment, c'était des analphabètes. Les seules choses qu'on a gardées, en tout cas dans les archives, écrite par les gens, puis pétition et autres, n'ont pas été écrites par les gens, puisque fondamentalement, je ne savais pas écrire, ni lire, mais écrites par un maître d'école, un petit notaire, des scribes, à qui les gens, puis une assemblée, disaient couche sur le papier, si et ça. Mais les actions des gens, les actions sont parlantes, parlent. Et c'est comme ça qu'il faut voir l'histoire et pouvoir écrire l'histoire des gens dits sans voix. La notte del 31 di agosto, il silenzio notturno era rotto dalle campane di Sant'Ambrogio, uno dei bastioni della rivolta, che suonano a martello. Temendo una controffensiva dei Ciompi, i signori fanno suonare a martello per 2 ore la campana grossa del palazzo, chiamando i fiorentini in difesa della piazza. Vero? Falso allarme? Non lo sappiamo. In ogni caso, quella notte, nessuno poté dormire a causa di quella maledetta campana di Sant'Ambrogio. Le tocsin. La cloche grave et répétitive des dangers et des catastrophes. Sonner la catastrophe après le retour à l'ordre. Faire résonner l'appel. Dans l'exil, disséminer les récits et répandre la tentative. Beh, se volete che scambiamo alcune parole, commenti, critiche sul film, sono qua. Questo film è stato presentato per la prima volta a Parigi a fine marzo di quest'anno al festival che si chiama del Cinema del Reale, al Beaubourg, Centre Pompidou, e due volte sala piena, 400 persone, e con neanche venuto i biglietti, era tutto riservato, e per cui già la selezione al Festival del Cinema Reale a Parigi, il film Ciombi è stato selezionato fra 40 su 1.700 domande, che è già un picco successo di cui siamo soddisfatti, la realizzatrice ne spera di Dio. E poi siamo venuti per dovere fare un giro d'Italia di Ciompi in questi giorni, siamo stati al Festival di Pesaro, è stato selezionato, e poi siamo andati a Prato davanti a una fabbrica occupata in questi giorni a presentare il film davanti alla fabbrica occupata, e poi a San Frediano a Piazza Tasso, che era Piazza Santa Maria di Verzaia, a Firenze, con il centro sociale di Via del Leone, e questa sera qui a Milano al Cox 18, e mi fa molto piacere di portare in giro questo film nei centri sociali in particolare, perché è un film, se vogliamo, in un certo senso militante. Io ho paura di utilizzare ancora questo termine che è stato e che considero un termine ancora molto importante, come vi dicevo lì prima del film, questo film parla dei ciompi, di gente disprezzata, di operai sfruttati che lavorano duro, che lavorano imbrattati con della lana, si diceva, dei grassi della lana delle pecore. Ed è un film che rivendica la dignità delle persone, la dignità. Nel mio libro ho scritto i nomi, non avevo neanche cognome, avevo un patronimo, un soprannome, i Ciompi del 300. E Agnès Perret, la realizzatrice, verso la fine si sentono gli operai che sono pakistanesi, senegalesi, insomma, che appunto dicono i nomi di operai in rivolta, di operai che fanno lo sciopero, perché questa è la base, dare un nome, un volto alle persone, perché la borghesia fiorentina del 300, come la borghesia odierna di Prato, che poi è un po' questa confusione, la parte borghesia dei padroni di Prato del destra adesso sono cinesi, come sapete, per cui il mondo cambia e bisogna sarà il passo. In ogni caso questa è la realtà, e avete visto come oggi gli operai di Prato, di Campi Bisenzio, che è una zona industriale mostruosa in realtà oggi, e che sono sfruttati. Quando eravamo a Prato c'era una manifestazione degli operai con i Sicobas che rivendicano uno statuto dei logistici che portano in giro i mobili, cucine di Mondo Convenienza. Dove lavorano? 7 giorni su 7, 10, 12, 14 ore al giorno per un salario di miseria, 5 euro netti, è una cosa spaventosa, con uno statuto che fanno le pulizie. Loro si spaccano la schiena a portare le cucine immobili in casa di chi ha comprato le, la mercanzia e sono pagati con lo statuto minimo, cioè chi fa polizia sono gli ultimi del carro. E si rivoltano come si vede nel film, come i ciompi, e come penso in tutto il mondo, tutte le rivolte sociali dei sfruttati, dei lavoratori, partono da un principio di reagire al disprezzo, non solo sfruttamento, ma disprezzo, e diventano con dignità. Non siamo una persona, abbiamo un nome, un cognome, trattateci bene. Ed è questo che oggi, purtroppo sono in questi giorni, ci sarei evidentemente, ci sarò domani sera a Parigi, in Francia, dove in questi giorni è riscoppiata la rivolta delle banlieue, dei poveri disprezzati delle banlieue, che sono fondamentalmente neri arabi, immigrati o figli di immigrati. C'era già stata una volta, come sapete, nel 2005, molto importante, è durato un mese, 2007 poi, e poi sono continuate le rivolte, anche le rivolte di Ciompi del 1968 viene da lontano, c'erano stati scioperi, iniziative durante i 40 anni, negli anni 40, del 300, c'è sempre una memoria che continua. E questa memoria adesso insurrezionali in Francia, dei banlieues arabi, si dice, degli abitanti delle banlieue, viene da lontano, da disprezzo coloniale che è stato fatto dallo Stato francese in tutte le colonie del mondo, dallo sfruttamento schiavistico prima, coloniale poi, e oggi di immigrati che sono stati chiamati a lavorare alla Renault, eccetera, eccetera, e i figli si trovano in cittadine orribili delle banlieue, in torri mostruose, non c'è nulla. Preferisco quasi una chiesa, voglio dire, ma ci sia qualcosa di sociabilizzante, e non c'è niente in queste città, e si rivoltano. Era probabilmente ragione, e questo spirito insurrezionale che sta in questi giorni in Francia, che viene anche lì da lontano, la memoria che si trasmette, e beh, è una cosa che a me mi fa impressione e considero perfettamente giusta. E se vogliamo parlare di violenza, sto qua fino a domani mattina a parlare di violenza, però che si dica prima da dove viene la violenza, chi la fa e chi uccide. Perché chi si rivolta in questi giorni in Francia, i ciompi francesi in questo momento si rivoltano contro ingiustizie, oppressioni di tutti i giorni, di tutta la vita, e hanno perfettamente ragione, perché la risposta violenta è giusta. Tu hai seguito anche la produzione del film, anche le scelte di immagine, quelle cose lì? No. Tutto quello che immagine è Agnès Perret che l'ha fatta con l'equipe, cameraman, suono, eccetera. Devo dire che, l'avete visto, immagino, intuito, che tutto il film è stato girato in 16 mm, con la macchina 16 mm. E poi il suono è stato aggiunto dopo, perché sono piste diverse. Se voi filmate oggi con uno smartphone, il suono e il video è uguale, poi non si può più, e anche con le macchine moderne di cineprese è così, per cui c'è un vantaggio. E il vantaggio di aver filmato in 16 ha permesso a Agnès di confondere i tempi, perché non si sa in che tempo è, e si vedono operai che lavorano oggi e figure del Medioevo sugli affreschi, e questa confusione secondo me è ben fatta, perché la confusione dice che il soggetto, il tema è lì, lo stesso praticamente, e poco importa il periodo storico, il luogo dove succede questo, ma quello che importa è il lavoro, la sofferenza e la reazione delle persone che finiscono per rivoltarsi. Questo fare film di Agnès, secondo me, è una riuscita nel genere cinematografico. Io ti chiederei qualcosa, ma sul film Agnès, dicevo che fa parte del cinema di Orel. Qualche parola sul cinema di Orel, mi è sembrato di riconoscere. Il cinema di Reel esiste come il Festival di Pesaro, credo, da 50 anni. Però Pesaro c'è documentario e anche fiction e altro, mentre il Festival del Cinema del Rel a Parigi è solo documentario, lungometraggio, cortometraggio, eccetera eccetera. E lì boh, il film ha avuto uno dei 7 premi previsti dalla giuria per il suono, perché il suono dietro è anche quello importante. Fa confusione e se non avete sentito nella prima parte del film c'è Agnelli Pirelli, non mi ricordo più, e L'Ottadura senza paura, che poi ripreso L'Ottadura senza paura degli operai pakistanesi, avete visto, e per cui c'è questa ricorrenza. E anche il film, nel film l'acqua dell'Arno che scorre, cioè dice questo, cioè suggerisce questo, che la storia continua, cioè passa acqua sotto il Ponte Vecchio a Firenze e la memoria non si perde, o in ogni caso non si deve perdere, e io e Agnès cerchiamo di contribuire a che questa memoria di lotta degli sfruttati continui. Parlaci un po' della tua ricerca sui ciompi del tuo libro. Beh, come detto nel film, ho fatto questa ricerca che è stata la mia tesi, e devo dire che mi è costata molta fatica. Ho lavorato molto, per esempio, a ricostruire la carta, la piantina di Firenze nel 300, e ho lavorato su archivi pubblicati alcuni e altri inediti, e ho lavorato molto sulla sociologia fiorentina dell'epoca, determinando che la popolazione, i lavoratori tessili a Firenze, su 70.000 abitanti all'epoca dei ciompi, c'erano la maggioranza, 60%, che lavoravano per l'industria della lana, tenendo conto degli uomini e delle donne che stavano dietro, perché la metà dei lavoratori tessili a Firenze erano lavoratrici tessili, con i loro figli e le figlie che erano in casa, come adesso fa Benetton, diciamo, nel Veneto, con oggi, lavoro in casa, e lo sfruttamento del tessile è qualcosa di incredibile, perché dal 300 fiorentino fino al Bangladesh oggi, nel tessile pare che ci sia uno sfruttamento maggiore che in altri settori lavorativi. Non so, probabilmente anche perché si considera che il tessile è un lavoro di donne, e per cui le donne, essendo supposte inferiori, si possono sfruttare di più, come i bambini. Perché questa storia, per esempio, che si dice i bambini nel tessile per fare i nodi nei fili che si spezzano, perché hanno le dita piccole, secondo me è un'invenzione totale, è per poterli sfruttare, perché un uomo adulto di 40 anni può avere le dita più fine, vedete, cioè, tutto questo sono invenzioni per sfruttare, cioè lo sfruttamento economico, strutturale, viene sempre da un supposto culturale. Tu decidi che un operaio, un manovale, fa un lavoro di merda, per cui puoi pagarlo poco, è solo la struttura che determina la struttura. Tu decidi che un nero africano nasce schiavo, come diceva Aristotele, lo puoi sfruttare come schiavo, eccetera, eccetera. Cioè, questo è fondamentale. E nel tessile si considera che sono lavori da donne e da bambini, per cui si può sfruttare al massimo. Mentre se nella siderurgia ci sono uomini forti, per cui lì è più delicato. Rispetto a quando quando hai fatto quella ricerca e poi è uscito il libro, gli studi sono proceduti, c'è maggior o minore attenzione a quel passaggio comunque importante nella fotografia e nei rapporti di classe, nei rapporti sociali, non solo in Italia ma anche in Inghilterra, un po' in tutta Europa, no? Anche c'è chi dice che questo movimento sia una delle cause, delle conseguenze, degli effetti della peste nera, ma comunque sia è una situazione che più o meno negli stessi anni segna varie parti d'Europa. Ci sono dei cicli storici e anche prima di me e dopo di me ci sono stati degli studi sulle rivolte sociali in Europa, nel mondo, che si stanno sviluppando. E, ci sono cicli, la rivolta di Ciompi si inserisce in realtà in un ciclo di rivolte, di insurrezioni in tutta Europa, da Parigi soprattutto, nel film si dice che c'erano dei fiamminghi a Firenze all'epoca, che erano rifugiati politici, diremmo oggi, dalle Flandre, dove ci sono state delle rivolte negli anni 60, 70 del 300, represse anche lì, le informazioni circolavano e la gente si parlava, chiaramente, non si può pensare che nel 300-400 la gente era sprovveduta. No, i proletari si auto-organizzavano. Io ho studiato poi delle rivolte rurali in Borgogna di operai delle vigne, operai dei viticoli, e anche lì nel 300 hanno fatto degli scioperi, hanno tirato fuori i ceppi delle vigne e si sono auto-organizzati, hanno preso un avvocato, sono andati al Parlamento di Parigi, al Tribunale di Parigi, hanno fatto valere le loro rivendicazioni, che volevano lavorare 8 ore al giorno tutto l'anno e non 14 ore al giorno d'estate da sole a sole, e l'inverno 8 ore, no, avevano già le idee chiare e facevano petizioni, facevano memorie con le loro recriminazioni, rivendicazioni. Bisogna capire che nel passato la gente pensava pure e si auto-organizzava, non è una cosa nuova, cioè noi siamo abituati, veniamo un po' tutti qua dalle lotte negli anni 60-70 in Italia, non bisogna pensare che nel passato la gente era meno lucida e combattiva. Faccio una domanda da ignorante. Si è parlato di fabbrica o fabbriche. Abbiamo un'idea di dimensione di queste officine, chiamavano questi luoghi di lavoro. Quanti operai stavano raggrumati nello stesso posto? Oppure c'erano luoghi variegati in cui venivano chiuse, veniva chiusa la posta di lavoro a fare dei lavori di un certo tipo. L'altro discorso, l'altra domanda è sempre così. C'erano già dei telai per 2 metri e mezzo di scotto al giorno. Sì. La manifattura fiorentina dell'arte della rana, che si diceva manca delle Fiandre, era uguale, era già sviluppata, era una vera e propria manifattura, si poteva quasi dire industria, solo che evidentemente non funzionava in una fabbrica raggruppata. Io vengo da Vicenza, Schio, la Rossi Nuova, erano 10.000 operai in uno stabilimento, uno solo, negli anni 60-70, enorme, mentre a Firenze nel 300 c'erano, secondo i lavori, dispersione dei luoghi di lavoro, si lavavano le balle di lana sull'Arno e lì c'erano operai addetti a questo. Poi si cardava, si pettinava la lana nelle botteghe che chiamavano, che erano piccole industrie, in cui potevano esserci 20-30 persone al piano terra di edifici fiorentini. E poi c'erano i tiratoi che erano grandi hangar aperti per tirare le rane. Era evidentemente una fabbrica disseminata. Una città fabbrica, certo, senza contare che il filato, che era uno dei lavori che domandava più manodopera, era fatto in grande parte nel contado fiorentino attorno a Firenze, perché c'era bisogno di manodopera enorme. E il filato era soprattutto fatto in casa dalle donne con le figlie e i figli. Io ho potuto studiare dal punto di vista storico, perché ho trovato negli archivi che il ciclo era ben organizzato, perché seguivano la lana, perché ci sono varie qualità, come potete sapere, fili lunghi, fili corti, eccetera, seguivano con dei segni che mettevano sui sacchi di lana, e per cui c'era una tracciabilità, si direbbe oggi, dall'inizio, dalla tonta delle pecore fino al tessuto finito. Sapevano perfettamente, tracciavano con dei marchi delle lettere, dei numeri, c'era una contabilità assolutamente rigorosa. No, c'era un'intelligenza di fabbrica, bisogna dire quello che è, degli industriali che erano mercanti fiorentini. In questi giorni con i compagni di Firenze e del Leone, e che sono evidentemente sorpresi, delusi, nostalgici al limite a Firenze popolare operaia, perché ormai Firenze, come sapete, è ridotta a villa museo, come sta inventando Roma dopo Venezia e come sta inventando Milano oggi, la produzione non è sparita. Attorno a Milano ci sono ancora un sacco di fabbriche, come attorno a Firenze, come a Vicenza, a Schio ci sono ancora un sacco di fabbriche, non è tutto esportato in Cina, in India, in Pakistan, no, molto, certo, dove c'è bisogno di molta manodopera pagata a vil prezzo, si esporta. Marzotto, che ha comprato la Rossi, che l'ha distrutta, esportata nell'87 in Romania, in Pakistan, Bangladesh, però ha tenuto a Valdagno la confezione di lusso. La confezione per i poveri la fanno in Pakistan o in India, la confezione di lusso anche a Firenze lo fanno vicino. Volevo sapere se il libro è stato tradotto, se ce l'hai in traduzione, in qualche proposta. No, io regalo questo libro, questa copia, a Roberto, la Calusca, e se la Calusca vuole tradurlo, no, è uscito nel 93 in Francia, e subito dopo c'era un editore fiorentino di Siena piuttosto, che mi aveva proposto la traduzione. Avevano cominciato, poi trovavano che era troppo caro la traduzione, quello che lo mandava l'editore francese come prezzo, per cui è stato abbandonato, e mi dispiace. Io sono un artigiano, so produrre un libro e poi non so venderlo, e continuo, faccio un'altra opera artigianale, però se volete, se conoscete qualcuno. E poi sul metodo, visto che comunque l'hai fatto tanto in Francia, ma sul metodo devo dire che io ero rifugiato in Francia, e per cui, siccome la tesi l'ho fatta negli anni 80, Sono stato molto aiutato dalla mia direttrice di ricerca, che si chiama Christiane Clapisse-Joubert, e che era specialista di Firenze, che ha studiato il catasto, ha fatto un lavoro straordinario a partire da Firenze, e che mi ha aiutato e che mi ha preso quando veniva a Firenze, mi ha fatto microfilmare i documenti che gli chiedevo e mi riportava a Parigi. Così ho lavorato, ma ci sono riuscito comunque. Conosco peggio, conosco un amico che ha fatto 20 anni di prigione in Francia e che ha fatto la sua tesi anche lui in prigione e con l'aiuto dei professori che uguale andavano negli archivi e gli procuravano le cose. Intanto ti ringrazio e ne approfitto per dire che il 12 luglio ci sarà una serata su quello che sta succedendo in Francia a partire da Nanterre. E sarà un discorso sulla Nanterre di ieri e sulla Nanterre di oggi, a partire da un libro sulla bidonville esistente a Nanterre e sulle trasformazioni di quest'area, ma poi cercheremo di fare dei collegamenti anche con la Francia, ma cerchiamo di costruire una situazione per informare al meglio di quanto sta avvenendo. Poi ci saranno sicuramente degli sviluppi, probabilmente già a partire da domani, perché con la domani c'è una chiamata in Champs-Élysées, giusto? Sì. Per cui immagina che ci sarà con il coprifuoco, perché già stasera c'è il coprifuoco, però non credo che la gente si lasci fare, perché c'è una vera insurrezione in questo momento in Francia, cioè vicino a casa mia vivo a Montreuil, appena fuori da Parigi, e poi c'è Rosny-sous-Bois e c'è un grande centro commerciale enorme, è stato saccheggiato alle 5 del pomeriggio, saccheggiato, hanno svaligiato D'Artia, hanno svaligiato i benpensanti si offuscano, rubano, normale che rubano, non hanno un soldo, poveretti, cioè, e poi bruciano nei quartieri popolari, è che non hanno i soldi per venire a Parigi, se ce li avessero, vanno sui Champs-Élysées e bruciano tutto lì, bruciano le fuoristrade, bruciano le Porsche. E che non c'hanno quei 10-20 euro che ci vogliono per andare a Parigi, da dove vivono, nei loro quartieri lugubri, nelle periferie. Questo è il problema. Per cui bruciano dove stanno, quello che possono. Per me è normale. E mi fa schifo il pensiero ben pensante borghese che spaccano, rubano. Normale. Per me è normale. Giusto. A Marsiglia pare che non saccheggia l'armeria. Eh? A Marsiglia pare che non saccheggiato un'armeria stasera. Bene, non posso che approvare. Non solo a Marsiglia, ho visto. Non hanno i soldi neanche per comprarsi il fucile. Ma no, beh, appunto, certo. una domandina ancora su questo. La grande rivolta del 2006 vide però una sostanziale assenza di compagno, comunque una presenza molto limitata e grossi problemi di comunicazione. L'impressione che ho io, però non ho elementi sufficienti, è che adesso vada un po' meglio da questo punto di vista, cioè i compagni sono più presenti e anche la comunicazione con i giovani Valdesar è più effettiva. Oltre che poi penso che quello che è accaduto nei mesi scorsi ha lasciato anche nelle teste dei borghesiati, cioè, poi in modi diversi, eccetera. Però comunque in Francia è il casino va avanti a lungate e quindi credo che degli effetti ci siano. Ma sulla questione dei rapporti e della presenza dei compagni, tu sai qualcosa? Sì, perché Nel 2005, nel rivolto del bandiere, che è stato un mese, hanno spaccato, bruciato, ma che c'era durato un mese, tutta la Francia. Era una rivolta dei proletari delle bandiere fondamentalmente rassizzati, come si dice, neri altri. E dal 2005 i compagni autonomi antifa hanno cercato in molti modi di allacciare contatti, fare azioni comuni. Già gli antifa a Parigi si chiamano antifa Paris Bandi. E ci sono riusciti in certo modo a avere un certo collegamento serio. Poi è successo che c'è stato dal 2016, portare di testa, eccetera, il corteo fuori dai sindacati, e poi c'è stato i gilets jaunes, i proletari, il più basso strato dei proletari francesi. E all'inizio i commentatori dicevano sono di destra, sono razzisti, sono antisemiti. Cazzo, io andavo nelle stazioni e poi vedevo anche l'immagine del televisore, c'era un sacco di neri armi. E incontro sempre di più neri armi nelle stazioni. E adesso con i mesi di lotta contro la riforma delle pensioni di Macron, ebbene, nelle stazioni sono un sacco di neri armi, perché la semplice ragione è che sono operai e sono colleghi. E per cui si sta facendo questo agglomerato tra bianchi, neri arabi, francesi nei fatti, perché o vivono nello stesso quartiere, o sono colleghi di lavoro, o sono compagni di scuola dei licei, ed è questo giro che si sta facendo sempre più importante, che si vede, e che si vede. E senza dire che ormai quelli che si chiamano i black bloc, già li vedo, moltissimi sono giovani neri arabi, liceali, le ultime amministrazioni liceali, che si confondono con black bloc autonomi che sono Kiev, con i capelli viola prima di mettersi il cappuccio. Sono molto simpatici. No, si sta mescolando le carte, e questo che lo Stato non lo capisce, e meno lo capisce meglio, perché loro cercano sempre chi, no, è il popolo che si muove, cercano sempre chi dirige, che è il comitato, il Salomo della Terra, i soldi che sono della Terra. Chi sono i Salomo della Terra? Siamo migliaia e migliaia, abbiamo fermato, sono 50.000, siamo i Salomo della Terra, certo. Oh, grazie ancora, eh.